293. Arnioni alla fiorentina. Aprite e digrassate gli arnioni come nella ricetta numero 291 e così spaccate a metà per il lungo, cuoceteli nel modo seguente. Ponete in un tegame al fuoco con un pezzetto di burro proporzionato e quando accenna a bollire poneteci l'arnione lasciandovelo un poco. Poi ritiratelo dal fuoco e conditelo con sale, pepe e un pizzico di prezzemolo tritato. Involtatelo bene nel condimento e dopo parecchie ore cuocetelo nello stesso tegame oppure in gratella involtato nel pan grattato.